Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Alle medie, seppure fossi grande e grosso, hanno cominciato a prendermi di mira, non miei compagni di classe, ma comunque persone della scuola. Mi hanno sempre vessato, preso in giro e minacciato anche, però poi la cosa, bene o male, è finita lì perché sono finite le medie. Io comunque ho cominciato a frequentare arti marziali sia per avere autocontrollo sia per difesa. La cosa comunque non è migliorata quando sono andato alle superiori, perché per i primi 3 anni delle superiori ho sempre subito vessazioni da parte dei miei compagni. Già, e dopo che succede? Questa è la domanda a cui ancora nessuno ha mai dato una risposta e che oggi vorrò in qualche maniera riuscire a soddisfare la mia curiosità e sapere che fine fanno i bulli. Stiamo parlando da anni di bullismo, abbiamo fatto tante trasmissioni, ieri c'erano 2 pagine intere su Repubblica, sul nuovo allarme bullismo, sia in aula che nei social network, ne vittima un adolescente su 3. È un fenomeno grossissimo che interessa i figli, i nostri figli, i vostri figli, i ragazzi, i traumi che potrebbero avere, l'influsso delle famiglie su questi comportamenti deviati che conosciamo da quando abbiamo memoria di essere stati giovani. Sì, ma i bulli poi, quando crescono, che succede? Che fine fanno i bulli? Ma io me lo stavo domandando poco fa e vorrei che voi mi rispondeste. Avete ancora traccia dei bulli che hanno esercitato per tutte le scuole elementari, le medie, i licei, qualcuno è arrivato anche fino all'università? E dopo, quando finisce la scuola, dove vanno a finire i bulli? Mi ricordo un pochino la frase più citata del giovane Holden, questo romanzo di formazione che a me hanno regalato almeno 6 volte dai 15 ai 20 anni e mi sono ben guardato da leggere fino in fondo, non ha nulla a che fare con me, non è la mia formazione. Questo giovane strafighettone, figlio di papà che se ne va a New York a fare esperienze, non mi ha mai appassionato, però tutti quelli che come me non l'hanno letto approfonditamente, l'hanno solo sfogliato per far contenta la zia politicamente avanzata te lo regalava, hanno memorizzato una frase che fece su anche Fabio Fazio tanti anni fa in televisione, che riassume un po' la domanda di oggi. Si chiedeva al giovane Holden, non avendo una mazza da fare tutto il giorno, dove andassero a finire le paperelle che stanno nel laghetto di Central Park. Lui le vedeva, ma sapeva che quel laghetto ghiacciava d'inverno, diceva, ma d'inverno che fine fanno ste papere? Qualcuno dice, ma fanno la fine dei pesci? E no, i pesci stanno sott'acqua, nuotano, le papere mica possono star sott'acqua, le viene a prendere qualcuno con un camion e le porta via, se ne vanno e emigrano verso un altro laghetto e si incamminano a piedi, insomma, sulla fine delle anatre del Central Park si è costruito il dilemma esistenziale di intere generazioni. Oggi dico, ma i bulli fanno come le paperelle di Central Park, scompaiono, hanno una fine misteriosa, si camuffano nella società, continuano ad agire da bulli per tutto il corso della loro vita, ma gli atti di bullismo sugli adulti, voi li conoscete? Avete avuto a che fare con dei bulli? Riconoscete il bullo che vi ha tartassato per tutte le scuole elementari, per le medie, per i licei, uguale, perché hanno una caratteristica comune, sono sempre tutti ottusi, sono sempre tutti strafottenti, sono sempre tutti vigliacchissimi, poi ve li ritrovate da grandi. E come agisce il bullo adulto? I bulli sono come le papere di Central Park. Qualcuno pensa che possano scomparire, ma in realtà ci sono, sopravvivono, riappaiono per ogni disgelo. Raccontatemi i bulli adulti della vostra vita di adulti e starete meglio. 800 24 00 24. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Ci hai sempre saputo fare con le donne. Vattene subito dalla mia macchina, vecchio! Vuoi passare quella ragazza, Biff? Io posso fare in modo che accada. Oh, davvero? E chi sei, la signorina Cuori Solitari? Sali in macchina, Pidocchio. Chi hai chiamato, Pidocchio? Pidocchio! Come fai a sapere come... Solo io so farla partire. Sali in macchina, Tan. È il tuo giorno fortunato. Dove vanno a finire i bulli quando finisce la scuola? Ma non si sa, perché in realtà dell'unico bullo cresciuto di cui si hanno notizie certe occorre ricorrere alla macchina del tempo Lo avete presente? Biff Howard Tannen è il protagonista cattivo della trilogia Ritorno al Futuro. È il tartassatore della famiglia dei McFly, da George McFly, il figlio di Marty McFly, fino a, diciamo, alla, lo vediamo da bullo bambino infierire sul povero inerme vittima di bullo, padre di Marty McFly, lo vediamo anziano ritornare al futuro e dare a lui adolescente bullo la chiave di tutte le partite del campionato americano per potesse scommettere e quindi vincere. Lo abbiamo in un'altra versione Ritorno al Futuro per una sorta di improprio spostamento spazio-temporale, perché il padre di Marty gli ha dato un pugno, quindi lo ha sbullizzato, l'ha fatto diventare un agnellino, diventa il suo servo, capito? Si cambia tutto lo schema spazio-temporale. In un'altra versione diventa il governatore della cittadina, cattivissimo, la trasforma in un grande casinò, una specie di Las Vegas, e impone il suo bullismo a tutta la cittadinanza. Sì, ma è l'unico caso, quello di del nostro amico Biff Tannen, di bullo cresciuto. Non li vediamo i bulli cresciuti, o perlomeno quando un bullo cresce viene normalizzato il suo essere bullo, nella tensione tollerata e nella possibilità di schiacciamento dei propri simili, che c'è nel mondo del lavoro, nella società degli uomini adulti, non si identifica più come bullo. È un po' come gli autistici, che a 18 anni nessuno li chiama più autistici, guariscono, perché non esiste l'autismo adulto, non esiste il bullismo adulto. Perché di queste persone che impegnano centri, osservatori, analisi, pagine di giornali, operazioni capillari, finché sono adolescenti se ne parla, poi quando crescono non se ne parla più. Che fine fanno i bulli quando crescono? 800 24 00 24. Anna, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Io attualmente ho 52 anni. Nel 1971, 7, 8, 9 anni, io ero un bullo. Ah, lei è una bulla cresciuta. Ah, bene, sì. Esiste. Io non mi riconosco, però mi ricordo. E quando è avvenuta la conversione? La conversione è avvenuta dopo intorno ai 10-12 anni, è cambiato tutto. L'unica cosa che c'è stata. Ma come viene, lei vede come succede? Voglio capire, questo è importante, perché da un certo punto il bullo scompare dagli osservatori sulle emergenze. Per lei è venuta molto giovane, a 10 anni, ha visto io una luce. Io ero chiusa in un istituto, nel senso che la mia mamma mi portava in una scuola dove c'erano delle suore e io non ci volevo andare, però non era questo, io ero bullo fuori, dentro casa, dappertutto, mia mamma ha avuto l'inferno. Mi faccia degli esempi delle sue attività da bulla, così capiamo. Ho picchiato. Picchiava, sì, bambine più deboli. Sì, l'ho picchiato, sì, senza motivo. Senza motivo. La per, mia famiglia per il gusto era di vederle piangere. Prendevo il bambino, che adesso è il mio attuale mobiliere, che io lo venero, perché io ricordo questa cosa, lui non la ricorda. Era piccolino, io l'ho preso per i capelli e l'ho tirato giù per tutte le scale della scuola. Quindi lei ha massacrato di botte quello che oggi sì. È il suo mobiliere. Sì. E perché non glielo dici? Guarda, io ero la bulla che t'ha gonfiato come un pallone. Perché me ne vergogno in un modo allucinante. Io sono animalista convinta, da piccola ho preso un gattino con la coda, l'ho fatto rigirare, l'ho buttato in mezzo a delle foglie. Sono sicura che vivo, perché non potrei sopravvivere a questa cosa. Vabbè, i gatti cadono sempre in piedi, in mezzo sì, alle però foglie. Però l'ho fatto. Quindi lei, allora, elenchi tutte, ha picchiato un bambino buttandolo per le scale, sì, ha massacrato un povero gattino, dica delle altre cose che faceva da piccola. Ho picchiato, sono andata nella stanza delle suore private, riservate, mi sono nascosta per vedere cosa facevano. E che facevano? Dormivano tra tanti veli, tutte chiuse tra loro, a me quella io tutte insieme, odiavo, tutte insieme? Sì, tutte insieme. C'è una grande ammucchiata, una mucchiata di suore. No, erano come dei biscotti in una scatola, stavano tutte insieme, annacchiappate, non le dico. E i biscotti stanno uno sopra l'altro? No, stavano uno a fianco all'altro. A fianco, ma che è un letto a 20 piazze, come funzionava? Erano un lettino, una tenda. Era bella immagine. Che mi dava... E lei non ha pensato degli atti di bullismo verso le suore, no? Sì, l'ho fatto. E cosa ha fatto? Ho tirato il cappuccio, volevo sapere come erano fatte. E come erano fatte? Avevano i capelli tagliati alla meno peggio, tutti proprio per mortificarsi. Alla cazzo di cane, come si dice. Perfetto, alla cazzo di cane. Negli ambienti raffinati. Sì, ho picchiato una ragazzina che veniva al dopo scuola, perché mia madre a casa non mi voleva. Picchiata forte. Sì, l'ho tirata per i capelli, sempre per i capelli pigliavo. Ma sì, maschio e femmina, picchiavo tutto. Tirandole per i capelli le bambine... Le si fa più male perché tira i capelli sì, e con l'altra mano infierisce sul volto, sulle parti molli. picchiavo tutti. Entro la quinta elementare ho fatto una strage. A casa mia venivano le persone a dire: suo figlio ha picchiato mio figlio. Io comparivo, perché mia mamma ci chiamava tutti e tre i figli, io comparivo nell'angolino, faceva il bambino. Non è stato quel bambino, è stata quella bambina. Molto spesso, vivendo al sud, la mamma ripicchiava il bambino che io avevo bullizzato, perché dice: ti sei fatto picchiare una femmina. Ah, quindi era un doppio piacere. È una cosa allucinante. Oltre lei picchiava un maschio perché sapeva che poi sì, la giunta di botte l'avrebbe data alla madre per lavare l'onta di un maschio picchiato. No, io questo non lo sapevo, questo capitava, io non lo sapevo. Ma però no, ci stava bene, così pigliava altre botte. Se qualcuno faceva del male a mio fratello, io lo andavo a vendicare. Detto oggi mi mortifica solo la parola. Menava solo con le mani, usava sì. Anche oggetti contundenti. No, le mani, era solo una forza smisurata. Perché era forte? Com'è? È nata forte? Non lo so, sono forte. Attualmente sono forte di carattere, ma attualmente... Lei vive sola, Anna? Io ho un bambino, un marito, una Il marito famiglia che, in che condizioni è suo marito? Mio marito mi teme, non è l'unico, mi teme, ma io sono brava adesso. Ma l'ha picchiato qualche volta suo marito? Una volta solo. Ma forte come? No, uno schiaffo e ho tirato un vaso fuori che è andato via. Cioè, l'ha mancato per poco. A lui no, lo schiaffo gliel'ho dato bene, l'ho rigirato. E il vaso non l'ha preso però? Il vaso no, è caduto in una piscina ed è con tutti i fiori ed era una scena meravigliosa perché sotto la piscina c'era sto vaso con sti fiori immersi, fermo, immobile. Sembrava un quadro. Sembrava la scena del Viale del Tramonto con l'affogato nella piscina, mancava suo marito soltanto in quella piscina. Tra poco. Però era... adesso in ufficio sono nella mia stanza, velocissima nelle pratiche, attentissima. Aiuto tutti, cioè non c'è ombra di quel bullo. Sì, non però so. Intorno a lei c'è sempre un alone di timore. Lei basta che alza gli occhi. E la voce, soprattutto la voce. Lei incute timore. Quindi al bullo cresciuto rimane l'autorevolezza di un ex bullo, come un ex pugile. Però non mi conoscono questi miei colleghi di oggi, la gente di oggi non conosce la ragazza di 10 anni del 1971. Ma basta un'occhiata, Anna, l'aria di Marrovescio, l'odore dello schiaffone si sente anche se non arriva. Però cioè nessuno mi dice o sei bello, sei brutto, sei alto, sei magra, cioè loro stanno lontani e a me fa piacere perché io evito questi contatti. Ma lei è ancora, diciamo, fisicamente possente, fa ancora paura, è grande? È la voce, è la forza mentale. Ma grande, non è grande, lei fisicamente grande. Io sono alta 1,60 m, peso 75 kg. Beh, quindi nella norma, è una cosa normale. Però magari delle mani belle grosse. Niente, però la gente mi sta lontano. Sarebbe capace ancora di menare una persona, sì? Sicuramente sì, però me ne guardo bene. Qual è l'ultima volta che ha alzato le mani su un essere umano? 16 febbraio del 2002. No, se l'è segnato perché corrisponde a un necrologio oppure questa persona ancora sta bene? Questa persona attualmente sta bene ma è terrorizzata da me. E cosa li fece allora? E niente, lo, soprattutto i maschi, della verità picchia soprattutto i maschi. Vabbè, i maschi. Ho picchiato, attenzione. No, ma questo ultimo, niente, quest'ultimo. Aveva mancato di rispetto, aveva parlato, era stato molto... Una battuta pesante. Fuori posto e gliel'ho date. Ma in che maniera? No, voglio sapere i particolari, come gli... L'importante, allora, un uomo non si aspetta mai che una donnetta piccolina, così 1,60 m, così mena un pugno, uno schiaffo. Dove lo colpisce? Quindi, per primo lei un uomo, dove lo colpisce? Io colpisco il viso, ho colpito il viso. A mano aperta o a mano chiusa? Con le nocche. Ah, quindi un cazzotto? Al rovescio. Ah, ma rovescio, colpisce sì. Di rovescio. Sì. E usciva sangue? Dal naso un po'. Ah, quindi gli ha spaccato il naso. E poi dopo il secondo colpo ve lo dà? E se ne vanno. E quasi sempre se ne vanno. Beh, una donna da un pugno ti fa uscire il sangue dal naso, uno pensa un attimo. Se ne vanno, dice che succede adesso? Cioè, con la coda fra le gambe via? Sì, sempre così mi è capitato, forse qualche giorno di Però lei in questo momento, guardi, si sta riscattando, sta dando una bella lezione alle donne in ascolto. Tante donne rimangono colpite, atterrite. Non esiste proprio. Se lei dà un cazzotto sul naso subito a un uomo, quello comunque ci pensa un attimo prima di andare avanti. Non esiste proprio, non è proprio nella mia cognizione, piuttosto mi faccio uccidere. Però volevo dire, attualmente quella bulla non esiste più. L'unico cambiamento però esiste, che c'è stato scusi, per Anna, 10, Sì. Non esiste più la bulla, poi tanto rimaniamo a parlare perché mi interessa, lei è una case history importante. Esiste però una donna capace di massacrare le proprie mani qualunque persona possa in qualche maniera mancarle di rispetto. Questo... Certamente, non è, no, nessuno mi manca di rispetto. Quindi diciamo è stata una bella palestra per lei il bullismo, tutto il male che ha fatto agli altri in questo momento se lo ritrova, non voglio dire in positivo, ma come se avesse fatto la galera alla Cayenne, esce dopo 30 anni di Cayenne... Può essere anche redenta da un punto di vista di capacità di vivere socialmente senza fare danni, però se qualcuno, come nei film, se qualcuno le attraversa la strada in maniera sbagliata, lei si ritrova la belva che era in lei e lo massacra. No, queste cose no, non devono entrare nella mia sfera, nei miei 40 centimetri intorno devono stare lontane, non devono entrare con parole eccessive, con confidenze eccessive, con apprezzamenti, non esiste proprio. Ma di lei sta dicendo esattamente quello che disse una volta, venne qui una maestra di arti marziali, Paola De Caro, parlavamo di violenza nei confronti delle donne, lei dette alcune cognizioni tecniche dal punto di vista della sua arte, dice, dovete immaginare un cerchio attorno a voi, non dovete mai fare entrare una persona, se non ci siete in confidenza, entro questa zona di rispetto. Lei sta dicendo, secondo un'arte marziale maturata in uno dei posti più terrificanti in cui uno può fare esperienze negative, che è un collegio di monache, esattamente la stessa cosa. La ex bulla si è affilata le unghie e i denti in un ambiente pericoloso per la sua incolumità, che era il posto, il collegio delle suore, e quindi oggi può dare delle lezioni al genere umano. Quindi Anna, non se ne vada, resti con noi, interrompiamo un attimo, ma lei è formidabile e indispensabile per andare avanti alla nostra domanda: dove vanno a finire i bulli? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Melog, cronache meridiane. Marine, hai fornuto in ciuccia, sì? E chiamo Belgian. Ma fa parmigiana per la luce, ti sei scordato? E mi so il profumo che ti ha già cattato? Sì, certamente. Ne ho ve, vieni a casa. Puzzi, lo sai perché? Perché ti hai messo da stronzo con Matteo. Ma tu è vero che pensi a fottere a me? Sei convinto, Marine? È vero che pensi a mettere a merda sotto una sedia e pigliarsi con un babà? Sai, non va a uscire. Ma no, è sto buono. Tu sai che fa questa tutta e sera? Dice a questi che si sente carcerato pure esse, perché senza te non va più. Questo è uno dei personaggi più fantastici della serie Gomorra, la serie televisiva, è Chanel. Perché mando Chanel? Perché degli ascoltatori mi dicono, te la sei inventata Anna, non esiste, è un'attrice, è un personaggio, sembra Chanel di Gomorra. Anna, me la sono inventata? Assolutamente no, purtroppo sono vera. Perché dicono che me la sono inventata? Non so perché pensano così, non sta bene che una donna si difende, non si sa offendere, una moglie che non si sa offendere, una mamma che si fa rispettare, una professionista che si fa rispettare dai colleghi, dai capi. Ma ha scritto un ascoltatore, se ci prova con me un cazzotto l'ammazzo. Non ci riesce. Più veloce lei. No, sono più cattiva io. Ecco, lui questo è importante. Anna, nella scuola di vita, al contrario naturalmente, che non va augurata a nessuno del bullismo, si impara la cattiveria. Quando fra due persone c'è un contrasto, non vince il più forte, quello che sa più arti marziali, il più cattivo. Sì. E lei la cattiveria l'ha imparata dalle suore. Attenzione, io dalle suore ci andavo in feste private, ovvero la mia mamma e mio papà pagavano una retta allucinante. Loro volevano farmi venire su bene. Io non le accettavo. Quale tipo di cattiveria hanno insegnato le suore? Perché le suore sono bravissime in questo. Sono cattive, mamma mia, le sopporto proprio. Le suore che ho conosciuto io ci picchiavano senza capire neanche chi era, con l'asta in mezzo alle mani, ci mettevano con le ginocchia sui ceci, ci alzavano la gonnellina davanti ai maschi perché nel 71 cominciarono ad entrare in queste scuole anche i maschi, ci alzavano la gonnellina e ci davano le sculacciate con la riga sul sedere davanti ai maschi. Questa è una cosa perversa, è un avviamento al sadomasochismo praticamente. Esatto, sì, hanno problemi grossi. Ah, erano delle maestre in questo, figuriamoci, pensa, sì. Si poi divertivano pian piano, come le matte, sì. Cioè, poi mi hanno dovuto togliere. E anche lei, diciamo, le ha dato le scudisciate davanti ai maschi sotto le mutande, lì, tirando sulla gonna. Io mi sono vendicata. Le scudisciate no, perché sapevo che le cose che potevo fare o che non potevo fare. Però le altre cattiverie, quelle di andare nella stanza, quella di toglierci il cappuccio, facendo finta di niente, perché io ci andavamo sulla panchina per stare nel giardino e pregare. Io mettevo il gomito sul velo. Quando lei si alzava, io non mi muovevo, aspettavo che si alzava. Lei pigliava una botta quando gli venivano fuori i capelli, tutte le ragazze mute che avevamo terrorizzate. E io dicevo, mi dispiace, suora, non l'ho fatto apposta. Quindi aveva imparato anche a essere vigliacca, sì. A fingere. Sì, a fingere, ma quelle erano cattive, cattivissime. Quindi Anna, si impara, questa è come la scuola del carcere, come la scuola della schiena. Ma erano finte, con i genitori tutte carine, basta la retta, non so quanto pagavamo all'epoca, tipo 20-30 mila lire al mese nel 1971, mezzo stipendio. E poi ci facevano, ci tormentavano proprio, ma io mi hanno cacciato, in quarta elementare mi hanno cacciato. Allora, ferma un attimo, Anna, prendi respiro. Allora, Anna, ex bulla, la prima volta che nella storia dell'umanità un ex bullo confessa e racconta tutto il suo passaggio. Il suo romanzo di formazione, altro che il giovane Holden. Andare negli anni 70 in un collegio di suore significa imparare l'arte della cattiveria, l'arte del pestaggio. E l'arte anche dell'infamità, del sapere mentire. Anna, resta in ascolto, abbiamo altre persone che avranno da porre il loro quesito, la loro esperienza ad Anna. Abbiamo Sergio. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Io sono un ex bullo. Ah, vedi, ci siete allora, non è che siete nascosti. Sì, assolutamente. Solo che non mi riconosco più, nel senso la vita, la società, il lavoro, la moglie, tutto quello che ci circonda. Non c'è più nulla di quello che ho vissuto quando ero ragazzo. Ma anche lei ha avuto come Anna una fulminazione, un momento in cui ha avuto l'illuminazione e ha cambiato vita? Ma no, un po' alla volta. Fino a quando è rimasto bullo lei? Fino a 20 anni. E racconti anche lei degli episodi. Anna è stata esplicita. Voglio sapere cosa faceva lei di cattiveria verso gli altri. Allora, io incutevo terrore in tutta la scuola. Perché? Cosa faceva? Io mi bastava che mi guardavano che partivo con un cartone subito. Quindi anche lei picchiava diretto, subito. Quindi diciamo, così, senza prefisso, così. Quindi bisogna essere spregiudicati e crudeli, picchiare subito, questa è la base. Ma sì, di base c'è la predominanza, nel senso il piacere nel vedere gli altri che stanno al loro posto. Che ti temono. Sì. E questo si ottiene picchiando senza pietà subito. No, perché sì, è importante. Ma senza motivo anche, tra sì, ma vede, nessuno parla con i bulli. Tutti li prendono da fuori, parlano con le vittime, li mandano dagli psicologi. Voglio capire esattamente. È una molla piacevole perché, come tu parli con un drogato e dici sì, all'inizio dà un sacco gusto. Questo nessuno lo dice. Fare il bullo dà un sacco gusto all'inizio. Sì, assolutamente. E tutti ti temono. Ma non è solo un discorso di gusto e di piacere personale. È proprio che uno si ricava uno spazio all'interno della scuola. Quindi ragazzi, state attenti perché ci sono io. Il primo passo però, il primo passo è una spaccare la faccia a qualcuno, perché sennò non si comincia mai. Sì, assolutamente. Ma poi per lei si ricorda la prima volta che ha fatto uscire il sangue a una persona? No, la prima volta no, è successo così tante volte che non. Quindi litri di sangue? Insomma, litri di sangue. Diciamo che si litigava spesso e volavano molti pugni, calci, banchi, volava di tutto, dipende. Dove si trovava, ci trovavamo anche fuori dalla scuola, bastava che uno mi guardava o che mi rispondeva male, dicevo ti aspetto fuori dalla scuola, c'era un vicoletto dietro, si chiama vicolo del laghetto, ci trovavamo lì proprio a fare il ring, con quelli più decisi ovviamente, quelli invece più, tra virgolette, più malleabili li pestavo direttamente sul posto. Quindi però bisogna picchiare subito anche i deboli, sennò non si stabilisce il principio di potenza. Ma il debole non è un problema, perché tu parti subito con uno bello schiaffone, e hai già chiuso la bocca. Sì, ma non deve esserci un principio di giustizia, bisogna picchiare subito anche il debole, così gli altri ti rispettano. Allora, ovviamente ci deve essere comunque una molla, non è che tu passi dai schiaffi così a gratis. Quindi basta che magari uno ti guardi in un certo modo, o basta che uno ti dà magari una risposta strana, e lo meni. Tu parti. Ma questo io l'ho fatto sia alle elementari che alle medie. Ma io addirittura picchiavo, io ero in prima media, picchiavo i compagni di classe di mio fratello che andava in terza. Beh, se si avvantaggiava col lavoro. Quando arrivava lì già aveva la fama accreditata lei. Esatto, poi allora eravamo, poi ovviamente alle medie non era così semplice. C'erano quei due, tre individui che sapevi che andavi a prendere il formaggio e allora alla fine ti coalizzavi in un certo modo, no? Eh sì, bisogna anche fare strategie con altri bulli. Esatto. Beh, il principio del clan camorrista, della cosca mafiosa, è chiaro. No, molto più light comunque. Beh, light. Light perché eravate bambini. Chiedevi il pizzo, ma chiedevi la merendina, il succo. Faceva anche queste cose, purtroppo. Mi viene da ridere oggi pensando a quello che ho fatto. Tra un po' mi spiace per quelle persone. È passato tutto comunque, non rimane più nulla. Ecco, mi spiega bene, perché voglio entrare nella mentalità di un ex bullo. Oggi lo vede come un atteggiamento infantile, una debolezza. C'era qualche... Perché Anna lo spiega facilmente. Era un ambiente repressivo, crudele, infame, e quindi ha reagito facendo la bulla. Lei qual era il motivo per cui si comportava così? C'era qualche molla esterna? L'unica cosa che mi viene da pensare è... Ma non lo so, perché sarebbe anche troppo semplice dare colpa a mio padre. Lui, per esempio, a casa aveva quell'atteggiamento molto... gridava, guai se succedeva qualcosa... Cioè, un padre autoritario, diciamo. Sì, però devo dire la verità, io forse avevo preso due schiaffi in tutta la mia vita da mio padre. Le botte serie le prendevo da mia madre, che mi amava in una maniera pazzesca. E forse se io ho un buon carattere oggi, è proprio lo devo grazie a mia madre. Diciamo da adulto, dell'età della ragione, dice fino a 20 anni ha fatto il bullo. Le è venuta mai a qualche ricordo di atti di bullismo adulti? Perché voglio capire fino a quando è la sfumata lunga del bullo. Poi quando, a un certo punto basta, la smette. Beh, atti di bullismo adulti quando magari ti tagliavano la strada in macchina o lo portavi fuori dalla macchina. Ah beh, lei è di quelli che se uno un attimo fa qualcosa ti vengono e tirano fuori e ti ammazzano, quello. Ma non più. Ma cos'è non che l'ha redenta? Allora, voglio capire a un certo punto. Anna non me l'ha spiegato ancora. Vedete la Madonna, esce una luce dal cielo. Perché a un certo punto smettete di essere bulli? Perché ci si deve adattare. Perché la società, perché io sono arrivato a un certo punto, Nicoletti, perché mi sono detto. Si va in galera, no, per quello. Ascolti, esatto. Io sono arrivato a un certo punto e ho detto, o cambio, o mi ammazzo, o vado in galera. Perché no, mi ammazzo, aspetti una frase forte, sì, mi ammazzo nel senso che io andavo a 140 all'ora in città, andavo in macchina. Ah, ecco. Quindi lei è anche, sì, ho capito, anche di quelli, oltre a essere bullo, anche un po' stronzo, perché mette a pericolo la vita degli altri, finché ma fa il bullo. Sì, è vero. Ma lo ero. Sì, ma non cos'è che... Nulla allora di tutto Sergio, una battuta, cos'è che destronzizza il bullo a un certo punto? In una frase, la paura di non farcela più. No, non è paura, è solo che se non ti adatti, solo chi si adatta. Allora, come nella giungla, non è l'animale più forte che vince, ma è quello che si adatta meglio. Io ho saputo adattarmi. A un certo punto il bullo capisce che a lui non conviene più avere quell'atteggiamento e rientra nell'ombra. Ecco, il bullo scende in clandestinità. Questa può essere una risposta. Fermiamoci un istante, stiamo raggiungendo un patrimonio sociologico importante che sarà tesoro per chi vorrà studiare il bullismo. Cominciate a studiare cosa succede ai bulli quando diventano grandi, capirete ancora di più i bulli piccoli. A tra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, se andate a cercare gli ex bulli, i bulli quando crescono, dove vanno a finire, lo avete ascoltato questa mattina. Pian piano si mimetizzano nella società, capiscono che devono adattarsi al mondo che cambia, mantengono vive le arti di sopravvivenza, di aggressività che hanno messo a punto nella loro carriera di piccoli bulli, ma in qualche maniera non si vedono più, entrano in clandestinità. Attenzione però, sono sempre vigili, non potete scavalcare quello che è il loro spazio vitale, come ci ha spiegato Anna, se no scatta il destro. Mariano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione perché ha centrato una parte più importante, cioè il dopo, non l'emergenza, il momento, il dopo. Parli di lei, Mariano, allora? Dunque, io ero dall'altra parte, insomma, sono stato vittima di bullismo, possiamo dire così, 25 anni fa alle scuole medie. Ma ha rivisto i bulli poi, una volta cresciuti, ha avuto modo di identificare quelli che erano i suoi persecutori quando sono cresciuti? Che fine hanno fatto? Era proprio questo, erano un paio di compagni con i quali oggi ho rapporti buoni, anzi le posso dire, tramite la mia azienda, frequento le loro aziende, ci si mangia la pizza, ci si scambia delle parole, si va abbastanza d'accordo, quindi quella fase è chiusa. Sì, ma ricordi allora che mi appendevi per le mutande all'attaccapanni, queste cose qua ve le ricordate oppure no? Poco, nel senso che la tendenza è questa, il bullo tende a non voler far portare avanti i momenti belli, non le cose brutte che probabilmente sono difficili da lui da mettere a fuoco, credo questo, in me sono abbastanza chiare, però in loro noto questo, che non c'è la voglia di far uscire questo, ma di far uscire il buono di quegli anni. Esattamente, conferma quello che ci hanno detto le due testimonianze che sono ancora in ascolto. Paolo, velocemente, Paolo, buongiorno. Buongiorno, sì. Bullo o vittima, no, cominciamo, bullo o vittima? Ma ibrido, diciamo, crescendo poi sono diventato un po' bulletto anch'io, diciamo, sono cresciuto in una scuola, in un ambiente molto particolare, quello del Vaticano. Dove? Esattamente dove? La scuola della Cappella Sistina, dove venivano formati i cantori del coro. Cioè le voci bianche vi castravano? Bravissimo, bravissimo. Ma sì, vi schiacciavano le palle anche voi? No, non si fa più quello. No, non avrei questa voce. Cioè l'hanno fatto fino agli inizi dell'Ottocento. No, fine dell'Ottocento, fine Ottocento. No, ma diciamo che già in terza media, con lo sviluppo, i ragazzi venivano defenestrati dal coro e liquidati, tra virgolette. Quindi come uno veniva la voce, cambiava la voce fuori. E cosa succedeva lì di bullismo? Ma c'era una fortissima competizione proprio tra di noi, tra anche la qualità vocale stessa dei ragazzi. Venivamo proprio educati al rispetto, soprattutto dei più grandi. E quando eri piccolo dovevi assolutamente accusare le prepotenze dei più grandi, a volte anche ingiustificatamente, e questo avveniva all'interno della scuola e anche all'interno dell'attività. Un atto di bullismo, mi descrivo un atto di bullismo che avveniva all'ombra della Cappella Sistina. Ma il top del top era la stira, la famosa stira, insomma, no? La descriva. Beh, la stira è preso un ragazzo, gli si calano i calzoni e gli si tirano le palle. Vabbè, come vede il cerchio si chiude alla fine. Ma quello è proprio il buongiorno, insomma. Sì, beh, la stira, un secolo prima la stira la facevano con le tenaglie arroventate perché gliele strappavano proprio. Comunque, mi sembra anche questo un bel ambientino. Chiara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io chiamo invece come fidanzata di un ex bullo. E niente, volevo più che altro soffermarmi forse sui fattori che possono avere scatenato questo nel mio compagno, che ora ha 31 anni. Lo ha redento lei, Chiara? No, si è redento da solo diversi anni fa comunque. Ma chi ne sa che lei era un ex bullo? L'ho conosciuto quando era bullo? Sì, diciamo che sì, era un personaggio che si conosceva e poi l'ho conosciuto quando ancora aveva dei residui, diciamo. Cioè un bulletto di paese, cos'era? Sì, un bulletto di quartiere, esattamente. Di quartiere. Anche perché credo che il provenire da un quartiere di un'estrazione sociale abbastanza bassa abbia influito parecchio, perché comunque loro, lui e la sua compagnia di amichetti, erano a loro volta vittime di bullismo da parte dei più grandi. E lei cos'era, diciamo, dei quartieri alti, come Lilli e il Vagabondo, qualcosa del genere? Un po' sì, quindi era una persona che tra l'altro io evitavo ai tempi della scuola, insomma. Però ne era attratta, chiaramente. Inizialmente no, forse dopo sono stata io a cambiare un po' le mie vedute, lui è cambiato, ci siamo, diciamo, venuti incontro. Però sicuramente il fatto di vivere in un ambiente sociale dove i bambini sono poco tutelati rispetto a quelli che sono i ragazzi più grandi della zona, così come frequentare scuole poi magari invece in condivisione con compagni che hanno estrazione sociale più alta, famiglie più presenti, crea un complesso, una sorta di complesso di inferiorità. Insomma, lei lo ha ripulito, diciamo, l'ha salvato dalle margini. E adesso lui vive a corte con lei oppure avete... Sì, sì, Conviviamo, lui credo che sia cambiato nel momento in cui è riuscito a ritagliarsi un suo ruolo sociale ben preciso. In cui aveva, è cambiato il giorno che una cameriera gli ha portato il caffè a mattina in camera, ha capito che la vita c'ha anche altri piaceri, o sbaglio? No, in realtà credo che sia stato il lavoro a cambiarlo, nel momento in cui ha avuto delle... L'ha trovato lei il lavoro? No, assolutamente, lui per conto suo, io l'ho conosciuto che già lavorava, aveva dei buoni riscontri a lavoro, guadagnava bene e quel cambiamento secondo me l'ha proprio cambiato. Vabbè, il bullo perché... non è più arrabbiato il giorno che incontra la possibilità di fare una vita comoda. Chiara, voglio chiudere con lei, l'ultimo minuto. Anna, la nostra prima coraggiosa ex bulla, ha una conclusione da fare? Per lei quando è stato il momento della redenzione? Cos'è stato che ha fatto scattare la molla, dire basta essere bulla? Anche se ancora qualche cazzotto secondo me ce l'ha in canna e forse potrebbe ancora tirare. Il 5 luglio del 2001 è nato mio figlio. Il giorno che è nato il figlietto basta. Ho detto non voglio andare in galera, io se continuo così vado in galera. Però anche lì ho litigato con un'infermiera che era aggressiva. E l'ha picchiata. Ho detto quando scendo dal letto ti massacro e l'hanno dovuta mandare via perché era terrorizzata. Avevo detto solo quello, ero operata. Cioè ha provato a strangolarla col cordone ombelicale, anche l'infermiera che l'ha fatta partorire. L'ho soltanto preso per un polso perché lei mi tastava l'addome. Vabbè, in normale. Modo proprio, e le ho girato il polso e le ho detto quando metti i piedi a terra... Ha spezzato il polso all'infermiera che ha fatto nasce il suo figlio, però Anna si è redenta, non farà più la bulla. Bene, ci siamo divertiti, alla prossima.